ma sembra già finita e ti ritrovi coi tuoi pochi anni a fare i conti con la vita che spesso non è facile e pensi che non puoi riuscire perché sei troppo fragile e senti tutti quanti contro, senti le sconfitte e senti il tuo destino avverso, senti le tristezze. Tempo, tempo inesorabile, e capirai che tutto passa e rende forti più di prima. Tempo al tempo, non aver fretta e capirai. E capita di perderti in qualche labirinto e capita di non riuscire più a trovare vie d'uscita. Inutile restare inerti perché hai perso una battaglia, la guerra è ancora lunga, prepara le tue armi. È ora di ricominciare, è ora di lottare, è l'ora tua di dimostrare cosa donna voglia dire. Tempo, tempo inesorabile, e capirai che tutto passa e rende forti più di prima. Tempo al tempo, non aver fretta e diventerai pienamente artefice del tuo destino. Tempo. Vola, si cade nel buio più profondo, in un'età difficile, in un'età di mezzo, ma poi ci si rialza da soli o con l'aiuto di chi ti è sempre stato accanto, chi ti è sempre stato amico. È ora di ricominciare, è ora di lottare, è l'ora tua di dimostrare cosa donna voglia dire. Tempo, tempo inesorabile, e capirai che tutto passa e rende forti più di prima. Tempo al tempo, non aver fretta e diventerai pienamente artefice del tuo destino. Tempo.